La Chiesa non è nostra madre. Ho letto in un periodico protestante la risposta di un teologo a una lettrice in merito alla Chiesa. La lettrice si chiedeva che valore aveva per noi la Chiesa, poiché non sempre adempie il compito per la quale è stata costituita, e la risposta del teologo è stata la seguente. La Chiesa siamo noi, ma non solo noi. La Chiesa c'era prima di noi e ci sarà, speriamo, anche dopo. La Chiesa sono le generazioni che ci hanno preceduto e quelle che verranno. Le generazioni che ci hanno preceduto ci hanno trasmesso l'Evangelo, mediante il quale abbiamo creduto. Senza la Chiesa di ieri non esisterebbe la Chiesa di oggi. Per questa ragione Calvino, all'inizio del capitolo quarto dell'Istituzione, non teme di affermare che meno non è lecito separare queste due cose che Dio ha collegato, e cioè che la Chiesa sia madre di tutti coloro dei quali Dio è il padre meno. L'aveva già detto, in termini a dire il vero un po' diversi, il vescovo Cipriano di Cartagine, nel III secolo. Non può avere Dio come padre chi non ha Chiesa come madre. Poiché leggo queste riflessioni abbastanza spesso, desidero esprimermi in merito per concludere che la Chiesa non mi sembra proprio nostra madre. Per rispondere adeguatamente occorre chiarire i due termini chiesa e madre. Cosa è una chiesa e chi fa parte di essa? Le risposte che vengono date dal cattolicesimo romano e dal protestantesimo, come movimento religioso, sono diverse. Per i protestanti la Chiesa di Dio è un organismo, similmente, composta da tutti coloro i quali, nell'udire la predicazione del Vangelo della Grazia, si sentono chiamati da Dio e rispondono con fede. In definitiva, è la somma di tutti i credenti in Cristo, che include sia quelli già entrati nel loro riposo, sia quelli ancora viventi. Per il cattolicesimo romano la Chiesa è sì composta di credenti, ma si entra in essa mediante il battesimo da neonati e, come leggiamo nel Catechismo al paragrafo 816, questa Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come una società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dei vescovi, in comunione con lui. La divergenza dunque è abissale perché mentre per il protestantesimo è un atto di fede che inserisce il credente nella Chiesa, per il cattolicesimo romano è un sacramento. Ambedue i movimenti religiosi riconoscono che la Chiesa è una, santa, cattolica, apostolica. Ma mentre per il cattolicesimo significa essere sotto la sua autorità, per il protestantesimo ogni chiesa è autonoma, governata dallo Spirito Santo mediante i conduttori. Stabilito cos è la Chiesa e chi appartiene ad essa consideriamo se la Chiesa è la madre dei credenti. Lo strano è che sia la religione cattolica romana sia la religione protestante. Se il termine madre è riferito a colei che ha concepito e partorito, ovviamente un bambino, allora la definizione accettata dai due schieramenti religiosi è da rivedere. Posso comprendere la posizione del cattolicesimo perché esso è in armonia con il suo credo, dato che la Chiesa rappresentata dall'autorità religiosa, sacerdote o vescovo che sia, mediante il battesimo inserisce nella Chiesa il neonato o la persona adulta secondo il periodo storico in cui si vive. Ma coloro che basano la loro fede sulla parola di Dio non hanno nessun appoggio scritturale per affermare che la Chiesa è la madre dei credenti. La scrittura non lascia dubbi. Or, c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne a Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità, ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere di nuovo. Lo spirito va dove vuole, e tu ne odi le parole, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo spirito. Giovanni 3, 1 a 8. Secondo Gesù non si può entrare nel regno di Dio, e quindi nella Chiesa, se non si è realizzata la nuova nascita, quell'esperienza mediante la quale si diventa figli di Dio. Questa esperienza è possibile solo tramite l'azione dell'acqua e dello Spirito Santo. Su questo sono stranamente d'accordo i due versanti religiosi, ma non nel loro contenuto. In definitiva si parla lo stesso linguaggio, ma intendendo cose diverse. Per il cattolicesimo romano, l'acqua rappresenta il battesimo, ma non troviamo nessun supporto scritturale per questa opinione. Piuttosto leggiamo nel libro dell'Apostolo Pietro che il credente è stato rigenerato non da un seme corruttibile ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio, vivente che dura in eterno, 1 Pietro, 1 e 23. L'acqua è dunque la parola di Dio, così la parola di Dio è lo strumento che lo Spirito Santo usa per rigenerare chi crede in Cristo. Chi rigenera è quindi lo Spirito Santo. Questa verità è presente in tutta la parola di Dio al punto che difficilmente si può negare che nella Sacra Scrittura non vi siano episodi o espressioni teologiche nelle quali l'enfasi sia posta sull'azione della persona dello Spirito Santo, la quale è la sola a far sì che il credente faccia parte della Chiesa. Due soli passaggi sono sufficienti, poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un unico spirito per formare un unico corpo. Giudei e greci, schiavi e liberi. E tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito, 1 Corinzi mezzogiorno e 12:13. Al di là della problematica dello strumento che lo Spirito Santo usa per rigenerare, una cosa è certa. Lo Spirito Santo è colui che mediante il battesimo inserisce il credente alla Chiesa, cioè al corpo di Cristo. E non solo. Lo Spirito Santo è la persona della Trinità che insegna, illumina, riprende, corregge. Vediamo la sua opera espressa molto chiaramente da Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 2. È scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Eppure noi abbiamo la mente di Cristo, 1 Corinzi 2, 9-16. Se prendiamo sul serio ciò che sta scritto, l'Apostolo Paolo ha messo in risalto l'opera dello Spirito Santo come non mai. Chi rivela le cose profonde di Dio è lo Spirito. Chi scruta le profondità di Dio è sempre lo Spirito. Solo lo Spirito conosce le cose di Dio e le comunica all'uomo. Lo Spirito è colui che insegna al credente come parlare e, secondo la lettera ai Romani, anche a pregare. Dunque, lo Spirito di Dio, sempre lo Spirito di Dio. Con questo quadro che esce dalla Scrittura, com'è possibile attribuire alla Chiesa ciò che è peculiare dello Spirito Santo? E lo Spirito Santo che rigenera il credente e perciò è la madre della Chiesa. Se per madre si intendesse anche di colei che cura e alleva, allora è sempre lo Spirito Santo a consolare e allevare. Ho la forte impressione che i due movimenti religiosi, aventi caratteristiche cristiane, si siano attribuiti alcune opere che sono specifiche dello Spirito Santo. Un teologo cattolico romano, non oscuro all'ambiente dei biblisti, mi diceva con rara onestà che la religione cattolica romana, che lui chiama Chiesa ma che per me è un termine assurdo, ha attribuito a Maria madre di Gesù, chiamata Madonna, gli attributi dello Spirito Santo. Così, quando il cattolicesimo afferma che Maria è consolatrice, corredentrice, che è colei che ci conduce a Cristo, attribuisce ad una creatura ciò che è peculiare di Dio. Lo stesso può succedere nell'ambiente di un movimento protestante. Affermare che non è possibile avere Dio come padre, per chi non ha la Chiesa come madre, significa sottrarre e spodestare il posto che spetta solo allo Spirito Santo, quale terza persona della Trinità. Proprio perché si è commesso questo errore, prendo l'occasione per correggere l'espressione di Cipriano, e avallata da Calvino. L'affermazione giusta sarebbe: non può avere Dio come padre chi non ha lo Spirito Santo come madre. Del resto, questo slogan, se vogliamo chiamarlo così, è in armonia con tutta la Scrittura. I cristiani da sempre credono in un solo Dio nel quale sussistono tre persone, uguali come natura ma distinte come persone. Il Padre è la prima persona della Trinità, il Figlio è Gesù Cristo, la Madre è quella che genera, consola e convince, è lo Spirito Santo. Il Padre, così come la Madre dei credenti, è dunque sempre Dio, quell'unico Dio in tre persone, il solo che edifica il corpo di Cristo. Per quanto mi riguarda, il Padre e lo Spirito Santo sono i miei genitori e io sono fratello di Gesù Cristo, il mio Dio. Dicembre 2004. Ellero.